Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. Come vi abbiamo anticipato più volte in questi giorni e lo avete sentito da questa mattina molto presto, oggi Radio 24 dedica gran parte del suo palinsesto alla campagna Disperati Mai. Sono centinaia le lettere che ci sono giunte a questo indirizzo di posta che la radio ha attivato per raccogliere le testimonianze di chi non ce la fa più, di chi non riesce a portare avanti la sua attività d'impresa. Parliamo di piccoli imprenditori, di partite IVA, di liberi professionisti, fino ad aziende anche di dimensione più importanti che per un po' hanno potuto contare su proprie risorse interne, ma anche quelle poi si sono esaurite e anche questi imprenditori hanno cominciato a lasciare i propri dipendenti a casa, a rimanere indietro con il pagamento di tasse e contributi, a subire le ritorsioni, qualche volta le abbiamo definite anche così, di Equitalia, degli agenti della riscossione. Vi ricordate la sollevazione dello scorso anno della Sardegna, dei 10.000 manifestanti in corteo a Cagliari per protestare contro le cartelle di pagamento di Equitalia? Ma anche tanti altri, non solo in Sardegna, sono stati i piccoli imprenditori che hanno detto basta alle case pignorate, alle ganasce fiscali, alle misure estreme, ai metodi usati dall'amministrazione fiscale verso chi non riesce a rispettare gli impegni con il fisco, ma non certo per colpa loro. Stamattina, ma anche nei giorni scorsi, abbiamo sentito tante testimonianze di chi non riesce ad ottemperare i suoi doveri fiscali, ma non solo, perché a sua volta non viene pagato per i lavori fatti e soprattutto, come si sa, è la pubblica amministrazione che è la prima a non pagare, mettendo in ginocchio centinaia di imprese. Allora, dopo aver ricordato tutto questo, vi sarete accorti che anche Salva Danaio dà il suo contributo all'iniziativa Disperati Mai, affrontando la specifica questione del credito bancario, quell'ossigeno che è venuto a mancare alle aziende negli ultimi anni. L'argomento lo abbiamo toccato in passato nella nostra trasmissione diverse volte, cercando di capire quali alternative avessero, come se ce ne fossero, ai finanziamenti bancari gli imprenditori, e in questi anni difficilissimi si è intensificata presso le organizzazioni imprenditoriali sparse sul territorio anche un altro tipo di attività. Queste organizzazioni hanno cercato di accompagnare gli imprenditori in banca con la creazione di strumenti di garanzia o con l'implementazione di strumenti di garanzia già esistenti. Questi sono i Confidi, i consorsi di garanzia Fidi, che hanno rappresentato in certi frangenti l'unica spalla su cui molti imprenditori si sono potuti appoggiare negli ultimi anni durissimi in cui il circuito del credito si è interrotto. Noi oggi vi spiegheremo come funzionano queste organizzazioni, qual è il polso della situazione, appunto anche facendo riferimento alle diverse aree territoriali, e quindi se in qualche maniera la loro attività e il loro supporto sul territorio è differente a seconda chiaramente del tipo di azienda che si rivolge a queste strutture. Abbiamo voluto condurre una sorta di monitoraggio suddiviso fra nord, centro e sud Italia, e io saluto subito gli ospiti che mi accompagneranno in questa trasmissione di oggi. Giancarlo Gagliardini, cominciamo con il Centro Italia, direttore generale di Fidi Impresa Marche. Buongiorno, dottor Gagliardini. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno ad Andrea Bianchi, direttore di Artigian Fidi Lombardia. Buongiorno, buongiorno a lei. Buongiorno. E buongiorno e grazie anche a Mario Filippello, presidente dell'associazione Confidi Sicilia. Presidente, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, naturalmente, come hanno fatto Nicoletta Carbone prima di me, ma ancor prima Oscar Giannino con Alessandro Milan, io vorrei raccogliere le vostre testimonianze all'800240024, oppure scriveteci al 349-238-6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Vi voglio coinvolgere anche a Salva Danaio, voglio sentire l'esperienza vostra in qualità di piccoli imprenditori o anche un po' più grandi. Cosa vi è successo quando la banca vi ha detto no, vi siete rivolti a queste organizzazioni sul territorio? Come vi hanno supportato? Oppure anche queste garanzie non sono state sufficienti a riaprirvi le porte del credito? Insomma, il tema tanto è quello. Vi voglio anche leggere una notizia che mi ha colpito non poco, e che ho trovato poco fa sulle agenzie quando stavamo preparando anche il nostro copione con le notizie di borsa. A dispetto, sentite questa, dei maxi prestiti erogati dalla Banca Centrale Europea alle banche commerciali per piccole e medie imprese dell'area euro, l'accesso al credito bancario continua a peggiorare. Lo rileva l'indagine periodica condotta dalla stessa BCE, che peraltro segnala come tra l'ottobre 2011 e lo scorso marzo, quando le due super aste di rifinanziamento del sistema c'erano già state, lo sapete, la BCE ha inondato di liquidità il sistema bancario con 1.000 miliardi di euro concesso ad un tasso dell'1%, e allora appunto la BCE ha segnalato come tra ottobre 2011 e lo scorso marzo siano invece aumentate le necessità delle PMI, delle piccole e medie imprese, di ottenere finanziamenti esterni. Invece il monitoraggio ha mostrato che per loro l'accesso ai prestiti bancari ha continuato a deteriorarsi. Complessivamente le imprese hanno riferito un peggioramento della disponibilità di credito bancario in un 20% di casi contro il 14% dell'indagine precedente. Non solo, l'indagine della BCE ha dimostrato anche un aumento del tasso di bocciature da parte delle banche sulle richieste di prestiti delle piccole e medie imprese, dal 13% al 13% dal precedente 10%. Intanto non è diminuita, anzi ha segnato un lieve rialzo, la quota di imprese che indica l'accesso al credito come il principale problema, il 17% contro il 16% precedente. Insomma, quindi questa statistica divulgata questa mattina probabilmente riaccenderà la polemica sul comparto bancario, dato che appunto, come vi ricordo ancora, la BCE ha erogato 1.000 miliardi di euro di rifinanziamenti a tassi e condizioni ultra agevolati alle banche, con prestiti appunto a 3 anni effettuati tra dicembre e febbraio, e invece, come sapete, se si va in banca ora a chiedere un finanziamento, la banca, se ti va completamente male, ti dice di no e ti saluta, se ti dice sì te lo concede, ma altro che a tassi agevolati all'1%. Gli spread sono letteralmente schizzati, e con tutto appunto il corollario che commenteremo questa mattina. Allora io vi ribadisco ancora, 800 24 00 24 è il numero verde per chiamarci, raccontateci appunto la vostra storia, noi ci confronteremo appunto con gli ospiti di questa mattina. Volevo cominciare con il Nord Italia, ma non perché sono qua, perché quando gli amici appunto di Artigianfidi Lombardia hanno sentito dell'iniziativa di Radio 24 Disperati Mai, si sono effettivamente candidati a questa partecipazione, perché ci hanno detto: fateci raccontare come noi sosteniamo l'impresa sul territorio, come ci siamo spesi in questi anni per portare le aziende in banca, non solo per ottenere finanziamenti, per risolvere i loro problemi, per rinegoziare situazioni difficili. Andrea Bianchi, so che ci avete tenuto particolarmente a raccontarci quello che è successo in questi ultimi periodi davvero difficili. Ci racconta un po' intanto qual è in questo momento la situazione, ancora quante aziende si sentono negare l'accesso al credito? Sì, grazie. Beh, noi ci abbiamo tenuto perché stiamo cercando di far passare un messaggio anche di fiducia, perché la situazione congiunturale sicuramente, come ha descritto lei poco fa, il quadro è difficile, sicuramente c'è una dinamica di costo del credito che è assolutamente disallineata da quelli che sono i trend di crescita dell'economia, che è il carattere distorto di questa fase particolare, dove vede il credito costare anche il 10% con un'economia che cresce dello 0, o addirittura decresce, quindi c'è una sostenibilità del costo del credito che dal punto di vista degli interessi è veramente difficile ed è uno scenario anomalo. Noi però ci tenevamo a portare una testimonianza per generare, per ricostruire, provare a ricostruire un clima di fiducia, perché in un contesto in cui è tutto vero quel che si è detto, cioè le aziende hanno sempre più difficoltà ad accedere al credito, hanno difficoltà ad accedere al credito a condizioni agevolate. Noi oggi portiamo un'esperienza, che è quella di un consorzio Fidi, che si rivolge come clientela di riferimento alle micro, alle piccole, alle medie imprese dell'artigianato, non solo dell'artigianato, noi siamo espressione come associazione di categoria di Confartigianato Imprese Lombardia. Siamo una società costituita tra 38.000 imprese lombarde che sta registrando in questa fase congiunturale comunque un livello di credibilità e di capacità di sostenere le proprie imprese alta. Noi abbiamo lanciato una campagna proprio in questo senso da poco, fondata su un numero che è 96%, cioè il 96% delle imprese che si rivolgono ad Artigianfidi Lombardia, pur nel quadro congiunturale così difficile come quello attuale, ce la fanno, riescono ad avere credito, ce la fanno sulla base della garanzia che viene rilasciata dal Confidi, perché qui la ricetta è semplice: noi abbiamo 38.000 imprese che nell'ambito di quello che è la nostra storia, che è una storia di 50 anni, si sono associate, fanno parte giuridicamente di un'unica società, hanno creato un capitale dando concretezza al concetto dell'unione fa la forza e dando una concretezza ante litteram al concetto oggi di estrema attualità che è la rete. E attraverso questo capitale, attraverso un insieme di attività che caratterizza per noi la valutazione del rischio, cosa che dobbiamo fare come fanno le banche, però facciamo guardando al territorio. Ecco, ma mi spieghi meglio un attimo, Bianchi, perché chiaramente sì, i numeri e le percentuali in assoluto sono ridondanti, sono importanti: il 96% delle imprese ottiene credito, ma chiaramente se parliamo di 5 imprese il 96%, la percentuale è importante, però il valore relativo è tutto sommato appunto contenuto. Quindi su queste 38.000 imprese associate oggi, a voi noi abbiamo oggi un portafoglio crediti che è costituito da circa 19.000 posizioni per 700 milioni di euro di esposizione complessiva, quindi stiamo assistendo oggi 19.000 imprese, quindi sono numeri importanti, certo. Il rapporto tra 700 milioni e 19.000 parla chiaro rispetto a qual è la dimensione media dell'impresa che sosteniamo. Noi facciamo operazioni medie che stanno tra i 50 e i 60.000 euro, anche se per la verità guardiamo ad un mondo dove è significativo la dimensione delle micro imprese, quindi facciamo anche tanti interventi da 5, 10.000, 20.000, ne facciamo altri da qualche centinaio di migliaia di euro. Abbiamo una distribuzione sul territorio lombardo dove in alcune aree di questo territorio la quota di mercato supera i 2/3 del totale delle imprese che hanno accesso al credito. Noi vogliamo testimoniare il fatto che questo è un modello che funziona, e pur essendo un'azienda che non ha fine di lucro, perché siamo una società cooperativa, mutualistici, non distribuiamo dividendo, facciamo promozione di questo messaggio, perché allineati alla nostra associazione di categoria vogliamo assistere un maggior numero di imprese. Certo, è un modello che funziona, le diceva direttore Bianchi. Lei ha un ruolo istituzionale e quindi chiaramente ci racconta i numeri e i risultati del lavoro che avete condotto fino a questo momento e che state ancora conducendo. Mi chiedo però, in termini personali, si è mai imbattuto in un imprenditore, in un piccolo imprenditore che ha avuto il desiderio di mollare tutto perché la banca continuava a dire no, perché anche il vostro sostegno non gli sembrava sufficiente, ha avuto l'opportunità anche di fargli cambiare idea e di risolvere in qualche maniera la sua situazione? Per non arrivare a delle derive estreme come quelle che stiamo raccontando da diversi giorni noi oggi a Radio 24. Noi abbiamo un flusso di contatti annuo che è di poco inferiore ai 20.000, quindi di storie, di persone, di esperienze ne incrociamo una quantità incredibile. Noi facciamo parte di un sistema che ha 1.200 collaboratori in Lombardia, che è Confartigianato Imprese Lombardia, quindi è chiaro che sui grandi numeri, proprio perché incrociamo grandi numeri, quotidianamente incrociamo le difficoltà delle imprese che risiedono anche nell'ambito di quella che è l'attività sempre più difficile di relazione con le banche, poi chiaramente risiedono in un senso più ampio nella difficoltà oggi per le imprese nell'essere competitivi dentro uno scenario economico che non ha certamente le condizioni migliori per essere competitivi anche nel confronto con le altre imprese europee. Quindi ne ha conosciuto o no qualcuno di imprenditore che voleva mollare? Certo, ne abbiamo recuperati diversi di imprenditori che volevano mollare, anzi guardi, nell'ambito di quella che è la nostra storia, dove noi un pochino per mission ce l'abbiamo, quella avendo fini mutualistici, di stare molto vicini anche a questo pezzo di economia che è quello che ha poco potere contrattuale, oggi però io devo dire anche personalmente in un'attività che ho condotto in questa azienda per un ventennio ho la grande soddisfazione di aver incrociato imprese che quando si sono rivolte a noi stavano in grande difficoltà e poi sono ripartite con noi, ricresciute con noi, hanno creato occupazione con noi, le abbiamo aiutate per quel poco che possiamo fare a dare un contributo allo sviluppo. Benissimo, direttore Bianchi, io per adesso la ringrazio, devo fare la prima pausa, poi naturalmente andrò al centro Italia, andrò al sud con Giancarlo Gagliardini e Mario Filippello, ci sono già delle richieste di intervento da parte di alcuni ascoltatori all'800240024, poi chiaramente adesso abbiamo fatto i numeri e le esperienze, poi vorremmo anche raccontare nel concreto come funziona. funziona, il sostegno di un consorzio fidi di queste strutture. Tra poco. Eccoci a Salvadanaio di nuovo, Salvadanaio che questa mattina è chiaramente in linea con il resto del palinsesto di Radio 24, ha organizzato una trasmissione dedicata alla campagna Disperati Mai, rivolta a tutte quelle persone nel mondo del lavoro, lavoratori ma anche e soprattutto imprenditori, piccoli imprenditori che hanno avuto la tentazione, e molti e troppi purtroppo l'hanno già fatto, di gettare la spugna, mollare tutto perché naturalmente le difficoltà finanziarie non ne permettevano loro di portare avanti la propria azienda e quindi costringevano a lasciare a casa i dipendenti, non pagare più le tasse, non versare più i contributi fino alla disperazione più totale. Noi abbiamo voluto dar voce a tutte queste testimonianze dando un taglio diverso a tutte le trasmissioni. Naturalmente nella nostra trasmissione Salvadanaio si occupa di credito, questa mattina il tema più ostico di tutti, per raccontarvi come funzionano le attività di queste organizzazioni sul territorio, sono i confidi. Anche in passato, quando il famoso credit crunch, la restrizione del credito, ha avuto appunto livelli altissimi nell'autunno del 2008, nei momenti più duri del 2009, avevamo organizzato trasmissioni di conoscenza di questi confidi e oggi ci è risembrato utile appunto ritornare a fare il punto della situazione per capire come in questi anni queste organizzazioni sul territorio hanno aiutato gli imprenditori, li hanno accompagnati in banca, perché poi fondamentalmente il lavoro è quello, attraverso questa attivazione appunto di garanzie sufficienti per l'imprenditore e tali da convincere appunto la banca a derogare finanziamenti e crediti per il proseguimento dell'attività ma anche per aumentare gli investimenti. Abbiamo sentito l'esperienza appunto dal nord Italia di Artigian Fidi Lombardia con il direttore Andrea Bianchi. Adesso vorrei andare al sud da Mario Filippello, presidente dell'associazione Confidi Sicilia. Presidente, prima di sentirla le faccio ascoltare una testimonianza di un ascoltatore brindisino, quindi andiamo al sud Italia con Antonio. Buongiorno. Sì, buongiorno. Antonio, ci racconti, sì. Sì, io praticamente ho avuto un'avventura, sono rimasto in piedi fortunatamente perché sono una persona che ci crede in me stesso e nei collaboratori che avevo. Comunque, vengo subito al sodo. Io mi sono rivolto prima alla banca, mutuo negato, poi mi sono rivolto al Confidi, lo stesso, mutuo negato. E quindi non è tanto vero quello che dicono, che aiutano gli imprenditori e tutto il resto. Adesso non ricordo il passaggio, se quando ho chiesto a Confidi avevo già la cartella dell'Equitalia, no, la cartella, pignoramento dell'Equitalia, però comunque mi hanno scartato, per cui non era neanche un importo enorme, era 150.000 euro che chiedevo su un investimento di 150.000 su 500.000. Come ha fatto poi Antonio? Niente, non ho continuato a pagare lo Stato perché pago chi lavora come me e quindi lo Stato ho detto di attendere, sono aumentate le cartelle, però poi grazie al lavoro ho sviluppato nuovi clienti e piano piano ne sto venendo fuori. Ha rateizzato i suoi debiti con il fisco e questa è la maniera con la quale riesce a sopravvivere. Antonio, io naturalmente le raccomando di continuare a stringere i denti. Le posso chiedere in che settore opera? Elettrico, elettrotecnico. Benissimo, grazie e in bocca al lupo per tutto. Allora, perché ho voluto sentire Antonio? Perché naturalmente poi anche i Confidi, per quanto lavoro abbiano fatto, i miracoli non riescono a farli. Presidente Filippello, anche a voi qualche volta tocca dire di no quando le condizioni sono particolarmente difficili. Allora l'ascoltatore dice: non è vero che aiutano sempre. Presidente, intanto le chiedo anche di raccontarci qual è la situazione in Sicilia, che campeggia su tutti i giornali. Anche Il Sole ha continuato a scrivere in questi giorni sulla situazione appunto siciliana. Proprio di recente molte imprese sono andate a protestare in piazza. Sì, la situazione in Sicilia è molto più grave che in altre parti d'Italia. L'1 marzo c'è stata una grande manifestazione di tutti gli imprenditori siciliani, di tutte le associazioni, quasi 30.000 imprese scese a Palermo, che dimostrano uno stato intollerabile che si è venuto a determinare. E il fronte del credito è il fronte più caldo, possiamo dire. È vero quello che diceva poco fa l'ascoltatore, non tutte le imprese possono ottenere le risposte dal Confidi. Precisiamo che il Confidi dà la garanzia. Denaro lo dà la banca. Il Confidi viene incontro al problema della scarsità dei patrimoni, della debolezza dei patrimoni delle imprese e in sostituzione delle imprese garantisce quasi sempre il 50% del credito che viene erogato e deliberato dalla banca. Il Confidi delibera la garanzia per l'appunto. Io vi do un dato per dirvi cosa è avvenuto in Sicilia. Noi raggruppiamo quasi tutti i consorzi di garanzia fidi riconosciuti dalla Regione Sicilia come associazione dei confidi siciliani, e negli ultimi 4 anni vi è stato un aumento, una triplicazione delle imprese che aderiscono ai confidi. Siamo passati da circa 30.000 a quasi 100.000 imprese su 350.000 imprese, quindi un terzo delle imprese iscritte e attive nelle Camere di Commercio siciliane aderiscono ad un consorzio di garanzia fidi. È successo negli ultimi anni che sempre più le banche hanno cominciato a chiedere, laddove mancano le garanzie patrimoniali, una garanzia di un consorzio fidi, come è successo che molte imprese, dopo una prima risposta negativa delle banche, si sono rivolte direttamente al consorzio. Ecco, ma Presidente, tanto per essere chiari anche con gli ascoltatori che questi sistemi non li conoscono, che cosa vuol dire quando un'azienda decide di aderire ad un consorzio di garanzia fidi? Un piccolo imprenditore che è già iscritto alla Camera di Commercio oppure a una partita IVA, che cosa fa materialmente? Va in uno dei tanti sportelli che i confidi hanno sul territorio, perché mentre le banche si allontanano, si sono allontanate nel corso degli anni, la ristrutturazione del mercato del credito ci consegna ormai un sistema bancario che viaggia a livelli internazionali, il sistema dei confidi è un sistema radicato nel territorio, con tanti sportelli e tanta presenza nei piccoli comuni come nelle grandi città, e quindi anche attraverso le associazioni di rappresentanza di diversi settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ci si indirizza subito verso lo sportello del confidi per chiedere l'assistenza, la consulenza sulla questione del credito e poi anche la garanzia. Quindi in sostanza quando voi erogate o distribuite, non mi viene il termine esatto adesso, il vostro bollino, la vostra certificazione, diciamo che l'impresa è maggiormente raccomandata, diciamo, quindi può andare in banca con il vostro supporto e dice, insomma, ha l'opportunità di ottenere il credito quasi della banca. Trattate sempre voi per l'impresa oppure è l'imprenditore che comunque deve continuare ad andare dal direttore di banca a negoziare per ottenere il credito pur avendo il vostro bollino? No, ormai il rapporto del socio del confidi passa direttamente da un canale che è diretto tra il consorzio e la banca. In molti casi addirittura l'impresa non conosce nemmeno lo sportello, dà solo le coordinate alla fine dell'operazione. Ormai in alcuni casi si arriva direttamente all'accredito all'impresa del credito che si è chiesto, quindi vi è prima di tutto un rapporto consolidato impresa confidi. D'altra parte i consorzi sono nati nel corso degli anni come bisogno delle imprese di aggregarsi e di far forte la domanda nei confronti della crescita esponenziale del potere da parte dell'offerta del denaro, e quindi sono nati sotto la spinta e l'esigenza della mutualità, diceva il collega poco fa, di mettere in rete le imprese, di mettere insieme le imprese per darle un potere contrattuale diverso rispetto a quello che solitamente ha il singolo imprenditore nei confronti delle banche. Certo, ripeto, non tutte le domande delle imprese, come nel caso di quel collega di Brindisi, poi ottengono in concreto la risposta, tenendo a precisare però che la risposta del denaro la dà la banca. Certo, però non le sembra un po' strano, Presidente? Questo senz'altro è vero. Questo imprenditore che ci ha raccontato la sua esperienza poco fa ha detto che continua a tenere duro, che attraverso la rateizzazione chiaramente degli impegni fiscali che il fisco gli ha accordato riesce ancora ad andare avanti perché lui comunque lavora. Pertanto è un imprenditore assolutamente solvibile, perché lui comunque continuava ad avere degli introiti, evidentemente continuava a fatturare, altrimenti avrebbe mollato. Invece lui riusciva, anche raccontandocelo con una certa dignità, ad andare avanti. Non le sembra che sia veramente assurdo che proprio chiedendo un aiuto, un'azienda peraltro sana, quindi non era neanche un'azienda che, come dire, era tra quelle di cui abbiamo raccontato l'esperienza in questi giorni, di quelle sul punto di mollare, gli si dica no proprio a quella? Purtroppo sono successe due cose negli ultimi 2 anni sul fronte del rapporto con le banche, poi un altro è il problema del rapporto con lo Stato e col fisco. Nei confronti del rapporto con le banche sono successe due cose in contemporanea: l'introduzione delle regole di Basilea 2 che mettono in grandissima difficoltà il sistema delle piccole imprese italiane nel rapporto con lo sportello bancario, e dall'altro lato la crisi finanziaria internazionale che ha visto le banche protagoniste e ha visto previsto soprattutto restringere il credito da erogare all'impresa, la quantità di credito messo a disposizione dal sistema economico, in particolare delle imprese. Allora, questi fatti in contemporanea hanno determinato una situazione drammatica. Allora, adesso vado da Gagliardini, però volevo far raccontare un'ultima cosa al presidente Filippello, e tra l'altro ho recuperato un po' di Sole 24 Ore degli ultimi giorni, anche questo del 19 aprile, raccontami: le imprese siciliane sono fallite a causa della pubblica amministrazione, decisivo il ritardo dei pagamenti, come sappiamo bene. Chiedo anche a lei, presidente Filippello, ci racconta qualche esperienza personale di qualche imprenditore con il quale si è imbattuto e che grazie alla vostra attività ha deciso di andare avanti e di non mollare. Sì, nel Meridione e in Sicilia in particolare il rapporto con la pubblica amministrazione è diventato drammatico, non per le vicende che si conoscono in genere, burocrazia e quant'altro, ma soprattutto di fronte al fatto che a fronte di lavori effettuati, di servizi e prestazioni date alla pubblica amministrazione, non si riesce più a farsi pagare da un comune, non si riesce più a farsi pagare da una ASL. Vi do un dato: nella sola regione Sicilia ormai sono 4 miliardi crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione. È un conteggio che abbiamo fatto negli ultimi tempi anche insieme alla regione siciliana, ed è una situazione drammatica e paradossale, perché in pratica le imprese fanno da banca per i comuni, per le province, per le ASL, per gli ATO e per la regione e per lo Stato. Una situazione che ha capovolto i termini della questione. L'aiuto che dovrebbe venire dall'ente pubblico viene ribaltato dalle imprese, soprattutto dalle piccole imprese, nei confronti della pubblica amministrazione. Le difficoltà della pubblica amministrazione sono lenite dall'intervento economico delle imprese, a danno delle imprese. Basti pensare che vi sono molti enti pubblici che pagano dopo 2 anni. Si parte da 180 giorni minimo dei termini di pagamento dei lavori effettuati, e si arriva anche a 2 anni di ritardo per ottenere il dovuto. Quando va bene, abbiamo avuto delle situazioni ancora più drammatiche, le abbiamo sentite stamattina durante la trasmissione con Oscar Giannino e Alessandro Milan, anche ritardi triennali da parte della pubblica amministrazione, alcune amministrazioni provinciali addirittura hanno maturato ritardi di questo tipo con alcune aziende, secondo alcune appunto testimonianze che abbiamo ascoltato. Presidente Filippello, grazie per essere stato con grazie noi. Adesso vado al Centro Italia, Giancarlo Gagliardini, direttore generale di Fidimpresa Marca, ancora buongiorno, le chiedo, buongiorno. Ha aspettato tanto, un altro secondo di pazienza, sentiamo i suggerimenti perché in viaggio, poi ci racconta anche l'esperienza di quest'altra importante area economica del nostro paese. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per le vostre testimonianze. Prima di sentire Giancarlo Gagliardini, direttore generale di Fidimpresa Marca, vorrei ritornare solo per un secondo al nord e vorrei sentire l'esperienza di Andrea da Treviso con i Confidi. Non le è andata bene, Andrea? Buongiorno. Buongiorno. Rapidissimo, se ce la fa, grazie. Sì, rapidissimo. Allora, io ho avuto un'esperienza passata con Confidi molto buona. L'ultima, purtroppo, di un mese e mezzo fa, è stata negativa. Noi siamo subentrati al finanziamento di un'azienda che lo aveva fatto con l'aiuto di Confidi. Per subentrare a questo finanziamento Confidi ci ha richiesto di rifare la pratica praticamente dall'inizio. Quindi, con tutti i costi che si sono dovuti sostenere, naturalmente. Esatto, immagino. Pagando dall'inizio i costi già sostenuti dall'azienda per la quale noi eravamo subentrati. E questi costi erano pari a più di 4.000 euro per un finanziamento di 150.000 euro, di cui Confidi garantisce circa il 25-30%, quindi parliamo circa di 30.000 euro. No, ma poi tra l'altro, Andrea, una volta rifatta di nuovo tutta l'istruttoria, c'è stato un sì o un no? Noi alla fine, non volendo pagare quasi 4.500 euro per garantirci 30.000 euro, che mi pare un'esagerazione, abbiamo denunciato alla garanzia di Confidi e ci siamo accordati con la banca in un'altra maniera. Andrea, grazie, grazie anche a lei, e qui ribadisco, d'altronde, anche pur avendo fatto un grande lavoro in questi anni, miracoli non si possono fare, però Giancarlo Gagliardini poi ci racconterà cosa sta succedendo nelle Marche, nell'area appunto del Centro Italia che lei osserva chiaramente da vicino. Ma Andrea da Treviso portava come eredità una sorta di continuità aziendale, perché non è stata sufficiente per ottenere il bollino, la certificazione da parte del consorzio Fidi? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, buongiorno ai colleghi, buongiorno a lei. la situazione di Treviso è evidente che è soggettiva, per cui bisognerebbe sapere, valutare, capire, eccetera, perché poi non. Però devo dire che il sistema di confini comunque rileva un costo. E le dico semplicemente questo, che forse noi non esisteremmo se la banca facesse forse meglio il suo lavoro. È evidente che un soggetto in più possa avere un costo in più, soprattutto perché rispondiamo della garanzia che prestiamo in maniera immediata. Noi siamo 107, quindi vigilati da Banca d'Italia, abbiamo sicuramente i costi di gestione, ma anche abbiamo regole a cui rispondere e rispondere soprattutto ad un sistema che si autoalimenta dalle stesse imprese. Noi abbiamo dei livelli di scoring per cui vengono valutate le imprese a seconda la validità delle stesse imprese, ma non rifiutiamo assolutamente il nostro intervento quando c'è un minimo di possibilità su cui l'impresa deve essere aiutata. Nel caso di Treviso mi è capitato proprio in questi giorni un altro caso che noi abbiamo avuto di un nostro socio che ha accollato un mutuo ad un'altra impresa che ha preso il mutuo. Noi non abbiamo fatto la stessa trafila, quindi non conosco bene quello che è successo a Treviso, ma nel nostro caso non sarebbe successo, però non posso giudicare. Le ricette non possono essere, immagino, generali in certe situazioni difficili, ognuno è certo. Ma evidentemente ogni imprenditore deve negoziare a seconda della sua particolare situazione. Gagliardini, chiedo a lei, purtroppo le ho dovuto riservare il tempo minore, recupereremo magari se lo vorrà in un'altra circostanza. Chiedo anche a lei di raccontarci la sua esperienza personale, a prescindere dal funzionamento di questo strumento di sostegno per gli imprenditori. Ha avuto modo di incontrarne qualcuno che era sul punto di mollare, di gettare la spugna, e grazie all'attività del consorzio Fidi ci ha ripensato, comunque si è rimesso in sesto finanziariamente, quindi ha potuto proseguire la sua attività in questo territorio dove si producono delle bellissime scarpe, si fanno anche tante cose, c'è una grande azienda in grande difficoltà che sono gli elettrodomestici del gruppo Merloni, e quindi insomma lì pure raccontiamo di storie molto differenziate. Sì, io innanzitutto concordo con quello che dicevano i colleghi di una situazione assolutamente straordinaria che ha bisogno di misure straordinarie. Dico solo che noi facciamo riferimento a un'associazione di categoria che è conosciuta a livello nazionale, che è la CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato. Anche noi abbiamo i nostri grandi soci, siamo 22.000 soci all'interno di Fidi Impresa Marche, tenga conto che nelle Marche ci sono circa 150-160.000 imprese, il sistema dei confidi ne assorbe quasi il 50%, quindi sono associati. La situazione nelle Marche, come lei ben sa, ci sono i famosi distretti che erano il nostro fiore all'occhiello e ancora rimangono per grandi meccanismi, per grandi numeri, rimangono comunque un punto di riferimento. Soprattutto l'industria manifatturiera, l'artigianato sta subendo su alcuni settori, devo dire, non su tutti, grosse difficoltà. Credo che le Marche, essendo un'industria, rifacendo riferimento alle imprese manifatturiere, abbia grosse difficoltà, soprattutto sul settore dei terzisti. E devo dire che come osservatorio di quello che vediamo noi, purtroppo abbiamo imprese che stanno scivolando verso una qualità di impresa diversa rispetto al passato. Cioè, devo dire che un'impresa tranquilla ieri oggi non lo è più, perché diventa un'impresa in difficoltà. Lo vediamo tutti i giorni, stiamo aiutando per quello che riusciamo a fare tante imprese. Situazioni disperate, fortunatamente ne abbiamo pochissime e ne sentiamo gli echi, e a volte riusciamo ad aiutare, a volte no. Purtroppo il sistema dei confidi non è il toccasana di tutto, ma per quello che riusciamo a fare sicuramente siamo presenti. Direttore Gagliardini, devo interromperla, il tempo a nostra disposizione sta terminando, però dico anche a lei quello che ho detto ai suoi colleghi, insomma, tenete duro, così come probabilmente faremo noi anche con Disperati Mai, e siccome ero gelosa di Oscar Giannino, Alessandro Milla e tutti i colleghi che hanno fatto delle trasmissioni in doppia conduzione, chiudo Salva Danaio con Sebastiano Barisoni, che è stato il portabandiera insieme ad Oscar Giannino appunto di questa grande campagna di Radio 24. Sebastiano, un punto. Sì, buongiorno a te, Deborah, ai nostri ascoltatori. Beh, geloso mica tanto, perché abbiamo due minuti, però a parte gli scherzi, la giornata è una giornata molto impegnativa che è iniziata, lo dico a chi si fosse appena messo in ascolto questa mattina, con una fusione, diciamo, tra programmi, Alessandro Milan con Oscar Giannino e poi Oscar Giannino con Gianluca Nicoletti, anche Nicoletta Carbone con il suo programma dedicato alla salute, con una rete, devo dire, anche molto interessante di psicologi, ha dato risposte di carattere chiaramente più legate all'aspetto personale che alla valutazione economica degli imprenditori in difficoltà. Continueremo poi nel pomeriggio, Focus Economia dalle 16, oggi non dalle 17 fino alle 18.30, aperto anche alle telefonate, quindi 800 24 00 24. Fammi dire una cosa prima di chiudere. Cercheremo di capire, oltre a dare consigli pratici, come tu hai fatto molto bene, ma come sempre del resto fai, di rispondere anche a un'altra domanda, se volete un po' provocatoria. Abbiamo notato che a fronte di una disperazione altissima, nel senso altissima come numero, come migliaia di mail che ci hanno travolto, c'è un silenzio abbastanza singolare da parte anche dei media, ma soprattutto in generale. Cioè, fa più notizia l'operaio che sale, giustamente, sulla gru rispetto al disagio sociale che poi porta al suicidio. Ecco, vorremmo capire se dietro questo non c'è anche una forma di così un atteggiamento un po' prevenuto nei confronti del piccolo imprenditore artigiano che così compie una scelta, ma se gratta gratta sotto non si nasconda qualcosa di peggio nella poca attenzione che ci sembra di notare nella prima. Quindi l'appuntamento con te alle 16.30 alle 16. Grazie a tutti, noi ci risentiamo lunedì, buona giornata.